Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buonissima la partenza di Joan Zarco, cerca di recuperare posizioni Valentino Rossi, gomito a gomito con Marc Marquez che probabilmente va a girare per primo, no, si accoda secondo alle spalle di Joan Zarco con Valentino Rossi terzo. Gara folle, no! Gara... No! Ah! È entrato Rossi alla staccata della non S, può star dietro. Al limite dell'aderenza, è entrato, si è rimesso davanti. La S di Valentino Rossi che torna a vincere, Rossi c'è, Danilo Petrucci subito dietro e poi Marquez con crash, lo vedo vizioso, in quinta posizione, è tornato a vincere, 300 e fischia giorni, Valentino Rossi è tornato a vincere. La cosa che mi rende più felice è essere tornato a vincere. Io corro in moto e lavoro tutto l'anno per questo feeling, per quello che si prova quelle 2-3 ore dopo la gara. Dopo un anno è ancora più bello. È la decima vittoria Assen mia, dopo aver vinto 10 volte a Barcellona, sono contento ed è molto importante anche per il campionato perché adesso siamo tutti ancora più vicini. Sebastian Vettel con Verstappen che si fa vedere all'esterno di Vettel con Raikkonen che va a centro, contatto, muro per Raikkonen, contatto con Bottas. Si sta lamentando con Hamilton perché va troppo piano. Hamilton rallenta tantissimo, Vettel lo tampona e si arrabbia tantissimo. Ricordiamo, e lo affianca e glielo dice, gli dà una ruotata, incredibile. Sicuramente un buon punto, però facciamo un attimo un'analisi della gara, adesso non vogliamo recriminare perché non è nel nostro stile, ma partendo da quello che è successo tra Bottas e Kimi, arrivando poi all'episodio di Sebastian, voglio dire, siamo in Formula 1 o al Colosseo. Eccoci qua, Andrea Roccabella oggi è in regia, Giorgio Luca ovviamente il nostro autore, Edoardo Lavezzari in redazione, dedicato a quelli che d'estate guardano solo i giornali gossipari per vedere come stanno i calciatori in costume. Ieri è stata una domenica molto più interessante di certe domenicacce di Serie A. Io ho chiamato subito Giorgio Terruzzi, che è più che altro un libero pensatore, posso definirti così. Buongiorno. Sta entrando uno che mi sa che conosci, si chiama Pardo Pierluigi. Chi è? Terruzzi. Buongiorno. Terruzzone, come stai? Bene, te? Bene. Molto abbronzato, bella faccia, bravo. Bella faccia, abbronzato. Sì, abbronzato. Di pure dimagrito, buttala lì, tanto di non ci vede nessuno. No, ci vedono invece. Ci vedono? Sì, perché c'è la webcam, pagina Facebook di tutti i convocati. E senti, l'avete già affrontato internet. Il tema, occasione persa, perché ieri ci sono state, adesso non sono un esperto di motori, però questi due elementi, no? La squalifica, il torno nei box 10 secondi, che poi sono 25 ovviamente per Vettel, ma c'è stato anche il problema abbastanza surreale di Hamilton, quindi alla fine nel conto della giornata chi ha perso l'occasione? Vettel, mi sembra ovvio, ha perso la guerra di nervi con Lewis Hamilton, che ha fatto la porcata. Però ha anche tenuto sui tentativi di sorpasso di Hamilton alla fine. Sì, no? Ma ha fatto la porcata e quello ci ha cascato. Io la penso così, non so il professor Terruzzi. Ma sì, sono stato di quelle cose lì da che qualunque preside ti sbatte fuori, qualunque professore ti sbatte fuori. Poi la corsa l'ha persa la Vettel, perché il problema che ha avuto Hamilton è un problema tecnico, il problema che ha avuto Vettel è un problema conseguente a una sciocchezza. Uh-huh. Quindi bisogna essere, insomma, quindi vedo, sento di tutti i colori, va bene il tifo, però ci sta anche che uno che ha quella carica lì, poi in certi altri momenti la stessa carica gli serva per vincere le corse. Però, uno che fa un... Tra l'altro è il primo scontro a gioco fermo della storia della Formula 1. Io non lo so fino a che punto c'è dentro una malizia di Hamilton, certamente c'è dentro una sciocchezza di Vettel. Io credo anche una buona dose di malizia di Hamilton, cioè, Hamilton che non è esattamente un gentleman, no, è abbastanza un figlio di buona donna. Ieri sentivo Chiara Zappelloni da noi che diceva Materazzi Zidane. È quella un po' la chiave? Sì, quella è un po' la chiave, provocazione, fallo di reazione. Però con Giorgio volevo, Valentino lo incoroniamo e lo diplomiamo per la decima volta ad Assen tra poco. Vale l'immortale, Giorgio. Ma questo ragazzo, non so se l'avete visto, sto ragazzo di 20 anni che è capace di vincere così a Assen, proprio è uno che ti dà soddisfazione. Bravino. Cioè, uno quasi quasi che gli metterei su due lire per il futuro, cosa dite? Sì, sì. Già fatto. Sì, sì, non è male. Già fatto. No, ma poi... proprio... Poi gli altri si sdraiano come birilli. Ma chi come vince questo mondiale? Ce ne sono 5 in pochi punti, no? E mi sembra. No, ma ieri, però, ragazzi, guardavo il podio e vedevo Marquez che lo guardava di fianco. Ma quanto deve star sulle balle Valentino a questi qui? Che ogni anno dicono: vabbè, basta, adesso basta, arriva sesto e non rompi così. Invece, sempre di ieri ho detto una cosa straordinaria: ho detto, intanto sono riuscito a vincere anche nel 2017. Che per uno che ha cominciato a vincere nel 1997 è strepitoso. No, poi Marquez ieri era lì a fare proprio il valletto d'onore perché grandi protagonisti, l'altro è stato Petrucci, che è un bel personaggino anche. Sì. Anche Petrux, io ho letto un'intervista qualche tempo fa, poi tornerò a parlarne, in cui diceva: ma guarda, io voglio essere tra i primi, se non ci riesco da qui a 3-4 anni mollo tutto, vado a fare il macellaio, vado a fare un altro mestiere. Beh, è tra i primi, c'è già riuscito a essere tra i primi. Infatti non affetta le bracciole. Senti, io da libero pensatore quale sei, e poi ne parliamo con Pardo, volevo chiederti di questa surreale e comica vicenda di Donnarumma, perché qui veramente siamo al grottesco con questa storia, quasi quasi meglio i calciatori in spiaggia in mutande sui rotocalchi patinati. Ma io no, adesso sul calcio cerco sempre di stare indietro su queste, però a me sembra che ci sia un problema. Non è calcio, cioè, Giorgio, sì, c'è un tale vuoto per cui persino un simbolo così giovane, fresco, diventa un monumento precocemente. Quindi caricando tutto attorno a un ragazzo che, come tanti ragazzi, non ha delle priorità che non sono quelle di chi si aspetta da lui una, come dire, un'investitura, un'auto-investitura, bandiera a pilastro di una storia, di una squadra, cioè è una cosa che, come dire, ha un palese, io lascerei perdere a questo punto, cioè ha talmente dentro un aspetto commerciale, un aspetto connesso al denaro, connesso a tutta una serie di priorità che legittimamente un professionista può avere, ma che diventano scandalose nel momento in cui tu tratti questo qui come uno che ha un'altra testa, ha un'altra ambizione, un altro animo. Non è così, cioè, quindi secondo me, se questa cosa dovesse portare Donnarumma al Milan, è quasi peggio, perché se viene fuori al primo casino viene, cioè, questo qui ha addosso tutto no, un ma pregresso. Poi, ma sai no, cos'è? Però... Poi, innanzitutto, quando si mettono di mezzo mamma e papà, vengono sempre fuori dei casini. Ma come tu qui citavi... mamma e papà stanno risolvendo il casino, dai, su. Ma stanno risolvendo secondo il casino. Me, no, ma, premesso che Donnarumma fa quello allora, che vuole. Allora, ci allora è anche la prima volta, oltre al primo scontro a gioco fermo alla storia Formula 1, come diceva Terruzzi, è anche la prima volta che ne esce, ma poi ne parliamo... Ne esce piuttosto male la figura di un papa, un pontefice del mercato e dei procuratori come Mino Raiola. Questo è un altro aspetto. Guardi, dico, secondo me la vicenda è abbastanza semplice da capire, anche se ha vissuto di risvolti surreali nella giornata di ieri. Vabbè, l'attacco degli hacker, veramente. Mancava solo l'invasione delle cavallette. Ma l'attacco degli hacker è in qualche modo proprio la ciliegina sulla torta, perché questa è, che io ricordi, la storia di mercato più social che sia mai esistita. Ma cioè, sì, è chiaro che Donnarumma, dopo quello strappo di una quindicina di giorni fa, ormai 10 giorni fa, ha vissuto una pressione, e questa pressione in un'epoca pre-social network non l'avrebbe vissuta. Tu sai come la penso sui social network. Ho capito, ma questo ragazzo è 18 anni che ogni minuto della sua vita vede gente dice: figlio, staremo, ti guferemo in tutti gli stadi dove andrai, tanto a Milano ci devi tornare, bravo che hai baciato la maglia, ma vattene, sappiamo dove va, perché questo è, no? Questo è. Sì, è troppo. E probabilmente Donnarumma non si rendeva conto, con quel primo no che era stato dato al contratto del Milan, del rischio al quale andava incontro. Poi io penso sinceramente che Donnarumma sia tifoso del Milan e che la situazione gli sia un po' sfuggita di mano. Io dall'esterno non li conosco, ma penso che Donnarumma si sia fidato di Raiola, perché comunque è un ragazzo molto giovane e Raiola comunque è un procuratore top, per cui se tu c'hai Raiola che viene ha fatto benissimo, cioè come Caschetto e Presta, cito i due più famosi del mondo della televisione, vengono lì, ti vogliono, e tu sei un ragazzo di 18 anni, che fai, gli dici di no? Poi lo segui pure nella sua strategia, ma il tema è sempre lo stesso. Cioè Raiola è un attaccante, è uno che ti fa fare delle cose abbastanza spericolate. Allora se tu hai il pelo sullo stomaco, la serenità, il carattere di uno che se ne frega, questa roba le fai tranquillamente con Raiola, ti diverti e guadagni tantissimo sicuramente. Se invece magari in testa, di fondo, sei un tifoso del Milan, sei ancora un ragazzo giovane, non ti immagini tutta questa tempesta, poi vai in crisi. Secondo me è quello che è successo. Al vabbè, del fatto Giorgio, che ieri... l'importante da libero pensatore è desocializzarci un po'. Ma certo. Sì, mi sembra tutto troppo. Cioè, insomma, allora, questo qui è un bravo portiere. Punto. Cioè non è che stiamo parlando di una cosa strepitosa della storia del pallone, è un bravo portiere di 18 anni che ha, secondo me, ha assunto, e forse poteva anche rendersene conto, perché poi questa cosa è un po' strana, no? Che da una parte uno ha 18 anni quindi non è maturo per, dall'altra però nonostante 18 anni è maturo per fare delle altre scelte, quindi no. Lui probabilmente ha sottovalutato il fatto che in un anno come questo, in cui fai fatica a riconoscere qualcuno al quale aggrapparti dentro un club che ha una tradizione molto forte, lui aveva assunto un ruolo rilevante. Allora, a quel punto lì tu puoi scegliere di sottrarti, di andare via, oppure fai, avendo 18 anni, visto che comunque di soldi ne prendi tanti, fai una scelta un po' più di pancia, un po' più certo. Cioè, comunque mi sembra tutto troppo, no? Cioè, è tutto troppo, Giorgio. Andrà a giocare in un altro posto. No, primo gol che prende, come capita a tutti, è capitato anche a lui quest'anno, viene giù il teatro. O al contrario, la prima buona parata che fa, tutti ad applaudirlo perché la folla è femminile. Esatto, ciao professore, esatto. Ci sentiamo alla prossima. Ragazzi, buon lavoro. Grazie anche a te. Traffico, Pier, poi parliamo di Valentino e poi torniamo sul tema Donnarumma con gli ascoltatori. 800 24 00 24, yes. Numero verde, vi aspettiamo. Convocati. Tutti convocati. Rossi è dentro, super staccata un'altra volta, va a prendersi la prima posizione, pubblico i piedi sugli spalti, Valentino Rossi torna davanti, Valentino Rossi torna davanti, a questo punto anche Marquez sì, lo deve reagire subito con svelta. Oh! No! Dove? Oh! No, dai, l'ha fatta matto, l'ha fatta matto. L'ha fatta veramente matto. D'accordo, tocca invitarlo al ranch, così vi date un po' di sportellate e poi state un po' tranquilli. Io però oggi ho capito che Zarco non è cattivo, è che proprio non è capace, no, perché cioè, non capisce la distanza con le altre moto, e perché non lo so dove voleva andare. E botte in pista anche ad Assen, non solo a Baku. Ieri abbiamo sentito la piccata dichiarazione di Valentino Rossi nei confronti di Zarco, che ha fatto a sportellate con Valentino, come Pierluigi Pardo qui con me oggi. Sì, non ho fatto a sportellate con nessuno, però no, vabbè. Però poi se vuoi facciamo io e te. Sì, poghiamo. Roberto Ungaro è The Voice del Moto Mondiale. Ciao Roby. Ciao Carlo, ciao Pierluigi. Ciao. Mentre Silvano Galbusera è l'uomo più vicino a Valentino Rossi quando va su una moto e su una pista. Ciao Silvano. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao, allora ti lascio la prima domanda da Roberto Ungaro, decimo diploma di laurea all'Università di Assen, serve un muro grande. Ciao Silvano. Ciao Roby. Io ho una convinzione che il nuovo telaio, quello che ha usato, flessibile, ha usato ieri, gli ha fatto bene più nella testa che nella pratica, nella realtà. Cioè non è da attribuire a quello sulla sua gara, però è servito a livello psicologico mentale, perché era bello. Cosa mi dici? Me lo confermi o mi sbaglio? No, secondo noi il telaio ha dato degli ottimi riscontri. Già subito Barcellona al test, Vale ha detto: adesso certo, mi diverto a guidare, riesco a fare quello che voglio, la moto va dove voglio io, per cui si può aprire un altro capitolo. Poi a Dastien abbiamo visto che anche con l'acqua si trovava bene, il grip era buono, riusciva a guidare come l'anno scorso, e alla fine in gara ha detto: questa la devo vincere per forza, è troppo tempo che non vado sul podio, per cui avanti. E poi mi ha stupito il fatto che quando è iniziato a piovigginare, lui era davanti, sarebbe stato molto più comodo e furbo magari far passare qualcuno e gestire e capire l'aderenza com'era, perché magari c'è un angolo in cui piove di più, piuttosto che, e invece è rimasto davanti, cioè si è preso gli attributi in mano e ha condotto e ha capito lui quanta aderenza c'era, e gli altri dietro ovviamente a succhiare questa. È vero o no? È vero, sì. Cioè, si è autoconvinto che non piovesse così tanto da rallentare, per cui alla fine ha detto: o va o la spacca, e ci ha creduto fino in fondo. Riusciva ad essere scorrevole senza esagerare con la moto, ha detto: ho visto che pioveva, però ho stretto i denti, mi sono convinto che non piovesse, via. Pierluigi Pardo, hai qualche curiosità da toglierti su Valentino Rossi? A Galbusera puoi chiedere quello che vuoi. La curiosità è su questo mondiale che mi sembra, io sono un profano, insomma, guardo le gare con entusiasmo, ma non ci capisco praticamente nulla. E, chi è il favorito? C'è un favorito, e chi è il favorito a questo punto del mondiale? No, c'è un'incognita che sono sempre le gomme, perché dipende dalla pista, dipende dalla moto, dipende un po' dalle condizioni. Ci sono in alcuni casi, qui ad esempio andava molto bene per noi, ci sono altri casi dove abbiamo sofferto sia a Jerez che a Barcellona, che avevamo vinto l'anno prima, per cui le gomme fanno un po' da spartitraffico, cioè ci sono delle gare in cui si addice più una moto e si vede un ottimo risultato, altre gare che invece non vogliono lavorare come si deve e fanno tripulare. Uno come Petrosa, che ha vinto qualche gara fa, ieri è arrivato tredicesimo, per cui le cose, ci sono 4-5 piloti che possono vincere il mondiale senza problemi. Se io, Roby, metto insieme due dichiarazioni, non ha torto Turrini quando dice: se anche le gomme cominciano a diventare decisive nel moto mondiale, non è come in Formula 1, non è un buon segno. E poi quella di prima, di Giorgio Terruzzi, che diceva ieri: ma pensa come rosicava Marquez, che era lì a fare il valletto a Valentino per un'altra volta, e davanti a lui c'era Petrucci che ha fatto una gara straordinaria. Era proprio il vassallo a questa incoronazione. Ma Valentino ha questa capacità, per non parlare di Vignales, che ha sbagliato nel cambio di direzione nella S, l'ha forzata troppo, avete visto, ha perso l'anteriore. Oppure parliamo, vabbè, questo è un altro caso, di Lorenzo che viene doppiato, cioè c'è veramente qualcosa che non funziona. il biondino manda sotto pressione tutti e fa fare cose incredibili. Ovviamente le Michelin rimangono protagoniste, la costanza non è il suo forte, le Michelin l'abbiamo detto più volte, sarebbe un peccato che il baricentro del campionato fosse solo per la Michelin. Da un altro lato dico, da spettatore, che comunque questa incertezza... Esatto, era quello che volevo dire io. Cioè, è chiaro che Carlo, che se ne intende di più di me, e lo capisco benissimo, nel momento nel quale le gomme diventano un elemento decisivo, a scapito invece della forza dei piloti, insomma. Però questo è un mondiale straordinario. Cioè, mi sembra che i primi cinque possano, cioè fino a Pedrosa, possono tranquillamente sentirsi in corsa. E forse, non lo so, forse anche sarà a me, Petrucci mi sta simpatico, che parla accento ternano, mi fa pensare ai Freak Brothers. mi piace. È di lì, No, però voglio dire, se guardiamo anche il trend di Petrucci nelle ultime gare, mi sembra che anche lui sia in quel gruppo lì, no? Ieri incazzato duro Petrucci, eh. Ce l'abbiamo la voce di Petrucci incazzato duro? Eh? Sì, ce l'abbiamo. Sono contento, un grande lavoro. Questa gara qui abbiamo veramente lavorato bene, è stata difficile, avevo con me il dottor Ceccarelli, Marco, il mio preparatore, tutte le persone che mi hanno aiutato quest'anno a star qua. È stato bello, sono contento, e adesso però tra un po' mi passa. Sono contento, però adesso tra un po' mi passa. Sai cos'è bello, Carlo, di Petrucci? Che lui non è un talentuoso come Valentino. Suo papà lavorava nell'ambiente, ha sempre frequentato il paddock, però ha lavorato veramente duro, anche perché lui per esempio è molto grosso, quindi ha lavorato tanto anche sul suo peso, si è affinato nello stile di guida, ci ha sempre creduto, è uno che viene dal basso, è un manovale del manubrio, e alla fine dai e dai ce l'ha fatta, e questo fa piacere perché è la sua grande forza di volontà, e adesso merita il risultato perché è arrivato vicino, ha fatto vedere che anche sull'asciutto è capace, e questa volta se Rins non si fosse messo di mezzo, raddoppiato con le sue gomme Rain, devo dire che ci avrebbe provato, perché già qualche giro prima l'abbiamo visto che non aveva problemi, non gliela mandava a dire Valentino, si è fatto vedere senza problemi, quindi questo vuol dire che è pronto per sferzare il grande attacco anche al dottore, che non tutti hanno il coraggio di fare, ricordiamo. Sì. Ma scusate, in un mondiale così incerto non è che poi l'esperienza di Rossi... No, lo dico, cioè non credo, vale Rossi, molto. Non credo certo che Rossi sia che vale il favorito, molto. Francamente, però... No, però vale molto la sua esperienza, altro che, perché lui nella gestione come tattica è imbattibile, e soprattutto sa aspettare, sa quando è il momento di stare invece all'attacco, e questo si è visto. Ieri aveva voglia, era troppo tempo, più di un anno che non vinceva, e lì, ricordiamolo, vincono solo quelli veri, Lì non si improvvisa una vittoria, assolutamente. Ma lui lì, scusate la signoranza, aveva vinto due anni fa una gara epica, se non sbaglio? Può essere? Dove? Allora, pista è dove accadde il fattaccio, quando lui tagliò l'ultima gita, esatto, passando Marquez, e poi e non venne, esatto. Molti dissero che doveva essere penalizzato perché era un taglio pista. Due anni fa, no? Sì, esattamente, due anni fa. E noi commentammo, ti ricordi Carlo, che la sua astuzia, perché come Marquez si era appena appoggiato, lui era già pronto con il gas in mano andare di là, cioè nella sua testa sapeva che c'era il contatto e aveva già previsto quella via di fuga, era lì l'intelligenza di Valentino, non si è scosso, non ha perso direzionalità, non è rimasto, avete capito? Perché lui già sapeva, e questa è l'intelligenza del dottore, l'esperienza che alla fine fa la differenza quando si guarda il risultato. Silvano, favorito o no? Come si sente? No, favorito no, però sono convinto che Vale ha voglia e sicuramente ci crede e farà di tutto per vincere altre gare ed essere lì sempre competitivo fino alla fine. Beh dai, se il Real Madrid ha vinto la decima, noi aspettiamo la decima. Ma soprattutto, veramente, soprattutto, il discorso, non so chi lo faceva prima, il discorso che poi alla fine... Tutti gli altri gli va il cervello in pappa se c'è Valentino. Quindi voglio dire, se rimane un mondiale equilibrato così com'è, siamo praticamente a metà, quindi possiamo immaginare che sarà così. Insomma, a parità di classifiche e di valori, io mi prendo sempre Valentino, ripeto da profano, nel senso che comunque è la capacità del grande campione che comunque ne ha viste più di tutti gli altri. Per cui o si trova un dominatore di questo pazzi. Mondiale e non si trova dominatore, non si trova, perché anche Vignales ieri è andato per terra, altro zero, te l'ho detto, cioè, quel Dovi lì, Marquez, Dovi facciamo motivo per lui, naturalmente, ma anche, ma ieri Marquez rosicava in maniera tremenda. Roby, ci sentiamo presto, come con Silvano Galbusera. Ciao Silvano, grazie. Ciao, alla prossima. Per quanto riguarda l'appuntamento con Roberto Ungaro, Racing Team, tutti convocati venerdì al più tardi. Ciao Roby. Ciao Roberto Ungaro, ci fermiamo per la borsa e poi torniamo. Cosa avrà Cicciordi da dire sul caso Donnarumma? Secondo te? Vabbè, lo sentiamo dopo la borsa. Carica pallettoni. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, la camera è là. Siamo, sì. Fa un saluto particolare a Pierluigi Pardo. Oggi non l'hanno ancora detto. 800 24 00 24, numero verde. Al volo un paio di ascoltatori e poi un cicciordine caricato a pallettoni. Questa vicenda, tweet contro tweet, Instagram, ste cose, Donnarumma. Domenico, buongiorno. Buongiorno, gente. Volevo intervenire in merito a Rossi per dire quanto rammarico per quei 20 punti buttati via alle mani, considerato che allora Marquez, che è, diciamo, un po' lo spauracchio, ha fatto zero e lui lo sapeva. Se lui si fosse comportato con quell'umiltà e con quella modestia che ha usato ieri Dovizioso, lui adesso sarebbe in testa al mondiale, non sarebbe Valentino Rossi, Domenico. Secondo me è proprio lui che, avendo esperienza, deve ragionare, posso dire una cosa da profano, ma è normale che uno vada a fare motocross, ma lo fanno tutti i piloti, no? Che vadano a fare motocross, cioè voglio dire, fa parte della follia sana di questi uomini che vivono, è come ieri ha giocato l'all-in e ha vinto, quell'altra volta ha giocato l'all-in e ha perso. Non sarebbe Valentino Rossi, probabilmente la vittoria di ieri è figlia di quello zero cui lei fa riferimento. Tony Torino, buongiorno. Comunque ha ragione, perché quei 20 punti li buttati chiaramente sono un errore, però ripeto, rientrano nella categoria, secondo me, del rischio. La cosa che mi sembra più assurda, al di là dell'errore di Le Mans, appunto, è che poi nel tempo libero vada a fare, giustamente divertendosi, vada a sperimentare altre forme di velocità e possano succedere degli incidenti come quello che ha avuto, che comunque credo che le due gare successive un pochino l'abbia condizionato. No? Tony, buongiorno. Italia e Spagna. Buongiorno a voi, a te Parde, a te Genta, grazie della convocazione. Avevo solo un dubbio ieri guardando la Formula 1 sulla penalità di Vettel. Ma se lui invece di rientrare ai box avesse continuato e alla fine gli avrebbero scalato i 10 secondi di penalità, non era meglio far così che rientrare ai box? Non può. Semplicemente... Perché mi sembra che poteva scegliere se entrare o no. Non si può fare perché drive thru bisogna, devi fermarti, perdi, non sono 10 ma alla fine drive thru entrare ai box, si scrive 10, si legge 25 secondi. Cosa dirà Franco Ordine su... Allora, posso fare l'epilogo di questa pazzia? Allora, Gianluigi Donnarumma 16-18, Raiola ieri, oggi e domani. Gianluigi Donnarumma, questo su Twitter, Gianluigi Donnarumma 22-55. Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio che non volevo generare, di questo mi scuso, desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la nazionale con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che non appena finito l'europeo incontrerò la società insieme alla mia famiglia, al mio agente, per discutere il mio rinnovo. Ma è falso, è un fake, perché questo l'ha scritto un hacker, così ha detto Donnarumma, cioè ha hackerato il profilo cos'è? Instagram, e che quindi ha chiuso Mino Raiola 22-29, Donna Raiola per haters 1-0, what's the next? Gianluigi Donnarumma, Twitter 23-13, hackeraggio sul mio account, chiudo social, Instagram, poi ultima puntata nella notte, Raiola che scrive, non so se era lui o un hacker, incontreremo il Milan. Ma c'è Franco? Sì, è lì. Che ci sta ascoltando e sta ridendo. Sì, sto ascoltando e devo contestare soltanto un dettaglio della tua ricostruzione molto puntuale. Contesta quello che vuoi, tanto io non ci capisco niente. Beh, certo che io sono qui per questo, per illuminarti. Per illuminarci, esatto. Esatto. Allora, lui non ha detto che chiude l'account per hackeraggio, ma non ha detto che il post era fasullo. Non ha assolutamente detto questo. Vabbè, anche fa, perché abbiamo la prova. No, scusa, Franco. Calma. Ha qualche differenza? No, no, la differenza è fondamentale. Perché noi abbiamo la prova tecnologica che il post è suo. E la prova tecnologica è dimostrata da due fattori. Primo, uno esclusivamente diciamo visto da noi stessi, e cioè qua, un minuto dopo la pubblicazione di questo post ci sono i like che vogliono dire mi piace del fratello di Gigio Donnarumma e del cognato di Gigio Donnarumma, a dimostrazione che la famiglia sapeva e approvava. Non solo, ma quando subisci un intervento o un hackeraggio, poiché la tua password è stata violata, non puoi più entrare nel tuo account. Mi sembra tutto chiarissimo. Io mi arrendo. Ragazzi, la cosa mi sembra chiarissima. Al di là della cosa degli hackers della sera, che, perché c'è stato pure il tweet di Raiola di ieri sera: Donna Raiola, haters 1-0, what's next? Cioè, io, allora, secondo me, vediamo se Franco ha la mia stessa idea. È in atto da giorni un ripensamento. Questo ripensamento, però, per una questione ovviamente di opportunità politica e di rapporto con Raiola, verrà fatto passare come un ripensamento concordato con Raiola, nel senso che Raiola non è che rimarrà in minoranza con la faccia scura a dire che non è d'accordo. Raiola vuole giustamente, vorrà giustamente che di questa vicenda passi una linea condivisa, lui, la famiglia del giocatore e il giocatore, il riavvicinamento al Milan, nell'accordo che verrà, secondo me, trovato. È successo che quindi ieri Donnarumma prima ha fatto un messaggio per Raiola per ribadirgli la sua stima, perché aveva letto la mattina il giornale e gli è arrivata notizia che sembrava che cambiasse agente. Fa quel messaggio lì, viene riempito di insulti dal mondo, soprattutto dal mondo rossonero, di gente che gli dice, perché dopo tanti giorni che non parlava dice quella roba lì, sembra, no, può sembrare che sia una conferma della linea in cui se ne vuole andare. Poi manda quel messaggio invece conciliante nei confronti del Milan, che in qualche modo viene confermato anche dallo stesso Raiola, perché poi Raiola ha detto che col Milan si vedranno. Quindi come andrà a finire, secondo me è abbastanza facile. La giornata di ieri rimane folle e mi verrebbe da dire statevi buoni con questi social network prima di fare danni. Stasera alle 19:30 parla, però secondo me il dato politico è molto semplice, cioè Donnarumma secondo me firmerà l'accordo col Milan, anche secondo me firmerà con una clausola, firmerà con la stretta di mano fra Raiola e Mirabelli, sarà una grande pace, perché è l'unica strada possibile in questo momento se vuoi rimanere al Milan. A me la cosa che più lascia perplesso è come un califfo come Raiola esca in qualche modo triturato da questa vicenda. Mio Raiola è quello che si presentò a Moggi in Bermuda a firmare il contratto di Ibrahimovic, e Moggi gli disse: ma ti pare il caso di venire vestito così? E lui: ma siamo qui a parlare di soldi e firmare il contratto per Ibra o di come sono vestito io? Franco, ti lascio subito la parola, traffico, poi andiamo avanti su questa vicenda che mi ha fatto perdere ogni lume della ragione. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Convocati. Allora, siamo qui belli freschi con Pierluigi Pardo in studio, Franco Ordine collegato, e io mi sono arreso a tutto questo, mi sono arreso ai social network e ho detto che quello che mi sorprende è che il Papa Dino Mino Raiola esca in qualche modo triturato da questa vicenda. Non ti devi sorprendere, perché ricordati sempre che nella vita come nel lavoro di ciascuno di noi, quando sei convinto di essere il primo della classe, quando sei convinto di diventare invincibile e hai l'occasione per vincere tranquillamente senza invece provare a stravincere, in quel momento il destino ti volta le spalle e magari sotto forma di una banale visita tra due papà che hanno avuto lo stesso problema e che hanno vissuto la stessa esperienza, il papà di Vincenzo Montella e il papà di Gigio Donnarumma, scatta quella molla, quella empatia tra le persone che parlano anche lo stesso dialetto e viene fuori una scelta diciamo di natura diversa che fa indispettire, avvelenare lo stesso Raiola, il quale poi naturalmente spinge il giovanotto in questa domenica bestiale, facendogli perdere probabilmente, oltre che la faccia, anche tanta credibilità, senza contare la serenità che non ha avuto, come dimostra la partita con la Repubblica Ceca. Questa è la grande sconfitta di Raiola come procuratore e della sua folle corsa verso una soluzione che non aveva molto senso e che aveva invece soltanto l'odore dei soldi. Sì, ma il mio Raiola che conosciamo noi avrebbe detto: vabbè, ciao a tutti, fate voi, voi beh, papà, perché, mamma. Ma guarda che Donnarumma gli serve. Non escludo che il papà di Raiola abbia pronunciato questa frase che tu inconsapevolmente, non so se perché messo sull'avviso o no, questa frase è stata pronunciata nelle concitate ore tra il post lacheraggio e il tweet di Raiola che dice parleremo con Milan dopo l'Europeo. Ma poi guardate ragazzi che insomma, per quanto Raiola sia grande, cioè, Donnarumma è un prospetto che gli può fare, non vorrei essere brutale, ci campa per 15 anni con Donnarumma, per cui insomma, prima di mollarlo secondo me ci pensa mille volte. Certo. Secondo me qua il punto è sempre lo stesso, lo dico da 20 giorni, ci deve essere una soldi che ha preso. Sintonia fra agente e assistito, è molto semplice, se l'assistito è prudente, sta bene in un posto e vuole crescere piano piano, la gente, ma questo vale in ogni campo della vita, chiunque, anche per gli artisti. Ma il problema vero è proprio questo, caro Pierluigi, è che Raiola non ha tenuto conto di nessuno di questi fattori. Ma d'altra parte scusami, Donnarumma ha detto, ma secondo me in maniera sensata, ho 18 anni, faccio fare al mio procuratore, poi ci si mette Montella che dalla mamma, dal papà, ma poi ci sono stati social, ma poi ci sono state le minacce, poi è diventato, ragazzi, la storia è uscita anche dal calcio, perché complice anche il fatto che non c'era molto altro in questo momento. Il caso Donnarumma è diventato un caso, se vuoi, anche da alcuni raccontato quasi come un esempio di poca gratitudine, di un ragazzo che si monta la testa. Cioè, Donnarumma si è trovato trattato, secondo me, in maniera anche esagerata. Io sono fra quelli che ha fatto un tweet dicendo che secondo me si stava sbagliando, e su questo non ho dubbi. Però al tempo stesso ti dico che secondo me si stava sbagliando, ma certamente poi alla fine la vita è la sua, per cui non è che deve essere minacciato o deve essere trattato come fosse un delinquente. Però sicuramente lui avrà detto a Raiola: vai in un primo momento perché tu hai più esperienza di me e sai quello che succede, e Raiola avrà applicato i parametri, le strategie, i criteri che applica per esempio con Ibrahimovic, che ha applicato con Pogba. Però Donnarumma è una cosa diversa, perché è un ragazzo di 18 anni che si è visto rovinare l'immagine nel giro di pochi giorni. Poi ripeto, i social, ragazzi, i social pesano. I social pesano, perché se io ho 100 persone, io un paio di volte ho avuto un paio di situazioni in cui magari da una città in particolare mi arrivavano degli insulti per una roba, capito? Pensa a Donnarumma che è 100 volte tanto e ha 18 anni e non stai bene quando migliaia di persone che ti insultano dal momento zero e sembri Giuda. Altra cosa curiosa, ma in questo momento Donnarumma che farà domani la semifinale dell'Europeo contro la Spagna non è sotto legge del controllo della Federcalcio? Certo, è un altro degli errori, scusami, questo è un altro degli errori commessi in maniera clamorosa da Raiola, perché io sto aspettando ancora che intervenga il presidente della Federcalcio per sostenere la tesi che Di Biagio non può dire pubblicamente ma in privato sostiene, e cioè che c'è stato un gravissimo danno arrecato all'Under 21 perché hanno trasformato nel giocatore più tranquillo, sereno, certo, glaciale che si potesse avere a disposizione, nel ragazzo più sottoposto a una pressione indescrivibile, che è quella delle tensioni, degli insulti sui social, della contestazione con i dollari fasulli lanciati nella porta dopo la prima, nel corso della prima partita. Questo è l'altro danno che è stato commesso nei confronti del calcio italiano in generale, ed è questo che è mancata a Raiola, il quale solitamente aveva la possibilità di gestire le varie situazioni, i vari contratti e le varie trattative in periodo in cui non c'erano di mezzo nazionali, non c'erano di mezzo altri eventi che potessero in qualche modo danneggiare. Ma mi sembra che era quello che avesse chiesto, grosso modo era quello che avesse chiesto, lasciamo che finisca l'europeo, e sono stati i cinesi a mettere fretta, pressione, chiudiamo lì. Ma oppure i cinesi chiudiamo... hanno detto scusami, i cinesi, e cioè Fassone, avevano detto prima che cominciasse l'europeo, l'ultimatum era per il 13, certo. Il problema era che Raiola non... il papà di Donnarumma ha raccontato la verità al papà di Montella. Quando i familiari sono andati a Monte Carlo, prima che Raiola si presentasse a Milano per dire non ne facciamo niente, al papà di Donnarumma è stato presentato un emissario del Real Madrid e uno del PSG. Che favole racconta Mino Raiola? Questa è la realtà. Lui aveva già preso la strada di Madrid per Donnarumma. Vabbè, lui, intanto... cioè, che lui la squadra top gliela trovi, non c'è dubbio. Che l'ingaggio top glielo trovi, non c'è dubbio. Ma questa, guarda, è una storia in qualche modo veramente simbolica, emblematica, perché non c'è alcun dubbio il fatto che Donnarumma, se non firmerà col Milan, si troverà fra un anno sicuramente a guadagnare molto di più e giocherà in un club che in questo momento, con tutto il rispetto per la storia gloriosa del Milan, sicuramente vale di più del Milan. Però, voglio dire, non, siccome non sono robot, ma sono esseri umani e sono quindi sensibili ai condizionamenti, sono sensibili alle etichette che ti porti sulle spalle, che è esattamente quello che ho detto all'inizio. Cioè, secondo me, al di là di tutti gli aspetti della gratitudine, a Donnarumma sarebbe convenuto firmare con una clausola, firmare perché comunque l'offerta del Milan è un'offerta più che congrua, e ma crescere con l'immagine del bravo ragazzo. Ora, no, Pierluigi non è un'offerta più che congrua, è un'offerta eccessiva, perché 25 milioni netti in 5 anni sono pari a 5,5 milioni netti l'anno. Sì, poi vediamo se ne passano 5, non... Franco, vediamo se ne passano 5 o magari anche soltanto 2. No, ma non li guadagna nemmeno Buffon. Vediamo. Allora, intanto, ah, no, certo. Intanto oggi ore 19:30, vigilia della partita semifinale europea contro la Spagna, in conferenza stampa si presentano ovviamente Gigi Di Biagio e accanto a lui Gigio Donnarumma. Fausto dalla provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Mi fa piacere che parlate anche un po' della Federazione, della Lega, perché il mio intervento... La Lega oggi, nulla c'entra. No. Il mio intervento per sensibilizzare la Federazione e la Lega stessa, perché noi continuiamo a parlare di trasferimenti di giocatori, Dani Alves, Donnarumma, però continuiamo a ignorare che è la metafora che si fa spesso, no? Il tavolo è un bicchierino sul tavolo. Tutti vedono il bicchierino, ma nessuno vede il tavolo. No, aspetti. Questa mi manca. Questa mancava anche a me, credo forse anche a Ciccio Ordine. Io non ho capito cosa c'entra la Lega Calcio in tutto questo. Mi spiego in 2 secondi. Allora, quello che volevo dire io è che quando c'è un c'è una trattativa di una nuova proprietà in una lega professionisti, io dico che la federazione e la lega stessa dovrebbe intervenire, io come presidente della squadra per fare cosa? Milan, Inter e così via, voglio sapere chi sarà il mio socio. Invece Zamparini, oggi come oggi, per esempio Zamparini, come Berlusconi, nessuno sapeva chi erano i soci e la Lega se ne fregava altamente di questa trattativa, ha lasciato tutto nelle mani del proprietario, giustamente, fino a un certo punto. Uno ho capito, mi perdoni Fausto, io sono bollito da questa vicenda ma non ho capito nulla. No, no, beh, la vicenda Zamparini, che è la vicenda del che Palermo, c'entra. Abbia avuto dei contorni oscuri, l'arrivo di Baccaglini, il dietro front, questo è evidente. Ma, sì, ma non c'entra niente. Ecco, no, certo non c'entra niente. Certo non c'entra niente. No, io quello che dico invece, prendendo la prima parte dell'osservazione dell'ascoltatore, sicuramente ci dovrebbe essere un codice di regolamentazione dei social network, sempre detto, no? È pure vero, ragazzi, che dovresti sequestrare il telefono al tuo portiere. Come in prigione! Dammi il telefonino. Qui non si, scusate, si tratta di regolamentare, Franco. Sì, ma non si tratta di sequestrare, perché ieri sera, mentre si scatenava tutto il putiferio dopo l'hackeraggio, Gigio Donnarumma chattava tranquillamente con Plizzari, o Plizzari, sì, che dir si voglia, sì. E quindi non è come se non fosse accettare è un'altra cosa, però, Franco. Scusa, non voglio farti sentire il gap generazionale che c'è fra me e te. Chattare è una chat privata, quello è come andarci l'SMS. Dobbiamo chiudere questa prima ora del programma. Io ringrazio Franco Ordine. Che non si può fare. Pier, torni domani. Io torno domani. Adesso però ti ascolto. Adesso Formula 1, a profusione. Formula 1, Leo Turrini, dopo GR. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Via del Gran Premio dell'Azerbaijan che scatta adesso con Lewis Hamilton che tiene la prima posizione con Bottas che prova subito a proteggere e fa quello che doveva fare mettendosi davanti proprio a Sebastian Vettel facendo subito l'attacco a Vettel con Raikkonen che tiene la posizione su Sebastian Vettel con Verstappen che si fa vedere all'esterno di Vettel con Raikkonen che va decido, contatto, muro per Raikkonen, contatto con Bottas. Lamentando con Hamilton perché va troppo piano. Hamilton rallenta tantissimo, Vettel lo tampona e si arrabbia tantissimo. Ricordiamo, e lo affianca e glielo dice, gli dà una ruotata, incredibile! Daniel Ricciardo vince il Gran Premio dell'Azerbaijan alla dietro, attenzione, Bottas che ci prova proprio sulla linea del traguardo, Valtteri Bottas prende la seconda posizione in volata, attenzione anche Lewis Hamilton che ha provato su Sebastian Vettel, ma Vettel per la sfida mondiale si è tenuto la grandissima. Criticare troppo può sembrare inelegante o può sembrare da parte nostra una scusa. Detto ciò, avete descritto voi la situazione esattamente com'è, cioè nel dubbio non diamo ragione alla Ferrari. .01 del 26 giugno 2017 pubblicamente chiedo la separazione, spero consensuale, con Leo Turrini per tradimento. Pronto, come andiamo maestro Genta? Voglio la separazione, Leo. No, io sono qui fermo, sono a Piero Cormano, c'è tutta gente che si sfancula. No, no, no, ma no. Perché vuoi la separazione? Voglio la separazione che questa mattina eri da Linus. Ah sì, ma sai com'è Linus dopo la disfatta di Cardiff? Mai fatto le corna. Essendo Linus dopo Cardiff un uomo distrutto, perché lui sai che è juventino persino più del Piero, io non potevo dirgli di no. Sono molto vicino. So che sei una superstar internazionale. Beh, però. Sì, non esageriamo. Quando sono qui sulla Piero Cormano, fermo. Caro gente, purtroppo tu vai in vacanza, mi lasci solo. Ma che vacanza? Anche ma che vai in vacanza? Turrini. Eri là a bronzarti al sole di Vignano. Ma che so sta tutto. Di? Gente, so tutto. Ma che sai? Fra te e Pardo, lasciate solo il povero Capuano. Pardo piuttosto. Molto triste da parte vostra. Andate in vacanza con Cassano, Balotelli. E poi ve la prendete con me. Ora io voglio dirvi una cosa però che mi viene dal cuore. Ti sta ascoltando Vita Antonio Liuzzi, che saluto e ringrazio. Ah, grandissimo, come stai Liuzzi carissimo? Ciao, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie. Allora Liuzzi, tu che sei un uomo del mestiere, toglimi la parola e dimmi, ieri ti è sembrato che il nero, facendo questi bei rallentamenti così, si sia comportato da pilota leale? Punto interrogativo, grazie, vorrei una risposta. Ma, leale sicuramente no, ha fatto il suo gioco, purtroppo è da furbo, pilota molto furbo, è esperto, se l'è giocata bene, ha fatto in modo di innervosire Vettel, portarlo all'errore, e purtroppo ne ha pagato le conseguenze Vettel per quel gesto di stizza. È stato molto furbo e purtroppo Vettel in questa situazione non può permettersi di fare errori. Esatto. Sì, però io volevo dire a commento dell'intelligente frase di Vito Antonio Liuzzi che un grande ingegnere di Formula 1 che si chiamava Bettino Craxi disse una volta a proposito di Giulio Andreotti, altro team manager, ma bisogna stare attenti a credersi troppo furbi perché prima o poi tutte le volpi finiscono in pellicceria. Sì. Allora, no, io ve lo voglio spiegare questo concetto relativamente a Hamilton. Io ho una grandissima ammirazione da sempre per lui, l'ho visto arrivare in Formula 1, penso che sia un manico eccezionale, eccetera. Però lui ci marcia, ragazzi. Basta. Vabbè. Cioè, ma, no, no, vabbè, niente, caro Genta. Prendiamo gli ultimi tre giri di Abu Dhabi, l'ultima gara del mondiale vinto da Rosberg, quando lui si è messo in modalità tartaruga perché sperava che Rosberg venisse ciamponato da qualcuno di quelli che lo rincorrevano. Non va bene, insomma, ragazzi, io sono fermo sulla Pero Cormano perché c'è sempre Raikkonen con una multipla che viene tamponata da Bottas, da tutti quelli che transitano. Non va bene, se noi parliamo poi alla fine, sì, la tecnologia è tutto, è la power unit, ma parliamo anche di sport. Allora, io che sono un ammiratore del Re Nero, non è giusto che lui si possa permettere sempre queste cose e non venga mai sanzionato. Vabbè, perché, però, no, scusami, vabbè, no, ho parlato con Linus, ma io non ti cedo la parola. Ieri abbiamo visto un gran premio a Baku che mancava solo la pioggia degli asteroidi. Sì, io quella pista lì non la vorrei più vedere in Formula 1. Però non esiste che alla fine della corsa Bottas ha buttato fuori Raikkonen, non era la prima volta la partenza, l'abbiamo visto tutti e Liuzzi ce lo potrà confermare. Poi Hamilton fa questo giochino, qui io sono più furbo, ti freno davanti, anzi no, alzi più l'acceleratore, tutto il resto. Risultato: penalizzati dalla giuria Raikkonen perché un meccanico aveva lasciato un berretto sull'ala dopo che gli aveva riparato la macchina in regime di interruzione di corsa in 20 minuti, e Vettel perché ha sfanculato Hamilton. E quelli della Mercedes mai niente. No, non va bene, non va bene, non va bene. Io vorrei fare una proposta dalla Piero Cormano, sono fermo, la multipla di Raikkonen viene tamponata in continuazione da tutti. Vabbè, ho capito. Formula 1. Allora, grande scandalo, manca solo Alfa Romeo Giulia. Io lo voglio dire. Manca solo Moggi. Manca solo Moggi, dai, manca solo Moggi nella tua ricostruzione. Mi devi spiegare per quale motivo quando c'era Safety Car comunque in testa alla gara c'è una Mercedes, che è appunto la vettura della Safety Car. Vabbè. C'è una congiura. Fammi sentire un pilota. Ma è bello perché Marchionne ha le braccia corte, quindi non ha dato la Safety Car. Hai capito? Perché c'è una Mercedes. Ti prego, non mettertici anche tu, eh. Ha ragione Liuzzi, vi ha fatto capire la verità, ma lo sanno tutti. Ma lo sanno tutti, gente. Io non voglio parlare di complotti, non amo la dietrologia, e quindi, per carità, la Mercedes ha dominato gli ultimi tre campionati. Prima di questo, mi pare abbia vinto 52 Gran Premi su 61 e ha fatto 59 pole position. Sono bravissimi, meravigliosi e tutto. Però, insomma, come diciamo noi che abbiamo studiato a Oxford, c'è qualcosa che tocca, perché se tutte le volte Bottas parte con un incarico da sicario, può fare quello che vuole adesso. Gli danno, ma scusa, ma se te dai lo stop and go a Vettel per la cosa di ieri, a Bottas che ha buttato fuori Raikkonen in quel modo, allora, niente. Poi è successo anche il duello che vi faccio sentire a Tele Autorini e Vito Antonio Liuzzi tra Lauda e Arriva Bene. Lauda: Lewis ha frenato troppo? Ha fatto brake testing, come dite voi piloti, su Seb? No, Lewis ha ragione, perché lui è il primo e lui dice la velocità. Molto facile. Solo la cosa strana, quando Sebastian è toccato dietro di lui, dopo lui è passato, è toccato un'altra volta. l'ho visto in televisione, toccato due volte. E questo sicuro è una decisione delle steward. Sono sotto investigazione entrambi però. Sì, dopo vediamo la decisione. Il primo, il secondo, il secondo. Quando uno frena, l'altro può frenare. È sempre la colpa di dietro e non di colpa del davanti. Andreas Nikolaus Lauda così, arriva bene. Lauda può dire quello che vuole, a volte parla per se stesso, a volte parla anche per noi o per chi chissà cosa. Cioè, voglio dire, a me, come dicevo prima, noi stiamo zitti e lavoriamo e lasciamo parlare Lauda. Detto ciò, lui ha i suoi punti di vista, noi abbiamo i nostri e ci rivediamo in Austria. Lui continuerà a parlare, noi continueremo ad ascoltarlo, perfetto. Le gare, ci sono ancora 12 gare. Allora, questo è stato, come Turini confermerà, il primo scontro a gioco fermo nella storia della Formula 1. Io voglio sentire di nuovo il parere di un pilota come Liuzzi. Guarda, c'è una situazione molto politica ovviamente alle spalle, quindi è particolarmente delicata la cosa. Ovviamente le parole di Niki nascondono qualcosa dietro, però purtroppo per regolamento chi è davanti gestisce l'andamento. A quanto pare dalle telemetrie sembra che Lewis non ha frenato ma ha soltanto rallentato, ha tolto il gas e quindi Sebastian sarebbe dovuto, diciamo, stare più attento in quella doveva situazione. Doveva tenere le distanze di sicurezza. Sì, le distanze di sicurezza. Purtroppo per regolamento Lewis non può essere penalizzato, ancor più dopo che Sebastian ha fatto quel gesto di sfida affiancandolo e dandogli una ruotata. Appunto. Quindi, e quindi purtroppo posso... il regolamento non può essere modificato, anche se molte volte non è sempre chi tampona ad aver torto. Poi Turrini mi mangia, però posso dire che il duello psicologico di ieri ha visto vincitore il moro della Mercedes, Vito Antonio? Ma indubbiamente a livello psicologico Hamilton è stato molto più duro tra i due, però alla fine in classifica è arrivato davanti Sebastian, quindi si sono un po' riprese le posizioni, quindi penso che dalla prossima gara in poi fino a fine campionato ci sarà una situazione molto calda, molto caliente. Poteva vincere la corsa, il problema è questo. Io ti ringrazio. Però ogni gara è come nel mondo del calcio, il pallone rotondo e ogni gara è la storia. Fa stare a sé, questo lo vedremo. Grazie Vito Antonio, ti saluto. Grazie a tutti, ciao. E adesso attendo di essere mangiato Leo Turrini, dal quale sto per divorziare ufficialmente. No, ma io guardo. Mangiami pure. Ma no, mica un problema. Allora, guarda, io l'ho detto, scritto sui miei giornali, tutte le lo so, lo so, ti ho letto. Sono attento lettore. È fuori discussione che Vettel, che è, diciamo, il nostro Rocky Balboa, no? The underdog, dopo anni di dominio Mercedes, abbia commesso un fallo di reazione e che la sanzione nei suoi confronti sia stata giusta. Il punto è che veramente io invito tutti, cominciando dal mio amico, maestro, nome tutelare, Genta, andare a vedere la carriera di Hamilton, perché Hamilton queste cose qui le ha fatte ripetutamente da quando era giovanissimo. Fa il furbo e mai una volta che i commissari, le giurie abbiano trovato qualcosa da obiettare ai suoi atteggiamenti. E questo perché? Guarda che Liuzzi prima te l'ha fatto capire quando ha detto purtroppo essendo nei limiti la mossa di Hamilton, cioè non frenare ma rallentare di bozzo, ma ragazzi c'è la telemetria, sta andando a 90 all'ora, molla il piede e scende a 40 all'ora, non è normale. Chiedetelo a chiunque faccia il pilota, ve l'ha detto Liuzzi prima, non è normale, non è un atteggiamento da, diciamo, sportivo. È una porcata. Guarda, allora, caro gente, c'è la lettera della norma, ma c'è anche lo spirito della regola. Allora lui fa il furbo, poi dopo, se uno dice, e ha detto bene prima Vito Antonio, l'hai detto anche tu, purtroppo Vettel ha boccato, ha pescato nel trappolone. Esatto. Io questo non lo contesto assolutamente, però non si può nemmeno andare avanti che il re nero ritenga che per lui, insomma, c'è il famoso discorso di Orwell 1984, lì la, come si chiama, la fattoria degli animali, sì. Siamo tutti uguali, le regole sono uguali per tutti, ma qualcuno è più uguale degli altri. Ecco, questo francamente, questo francamente è inaccettabile, e io credo che la gente comune, sì, la gente comune lo abbia capito. Io non penso che dopo l'episodio di ieri Vettel sarà visto, diciamo, in termini negativi o meno favorevoli dalla pubblica opinione. Non sto dicendo perché questo, si sono resi conto. Non sto dicendo, che è stato provocato e ha reagito. Ha un avversario, caro Geta, che gioca sporco. Gioca sporco. Scusa, vabbè. Scusa, poi Geta, fammi dire un'altra cosa prima di mandare la sigla. Dimmi. Ma vogliamo parlare del team radio nel finale, quando è già successo tutto, Vettel ha già scontato la penalizzazione, è davanti a Hamilton, stanno lottando per il quarto posto. Che Hamilton via radio dice al suo vertice Mercedes: fate fermare Bottas in modo tale che possa rallentare Vettel, così io ho maggiori possibilità di sorpassarlo. Ma l'avete sentito o no? Sì, sì. Allora, sì, a parte il fatto che Bottas, allora, se Bottas è Sabina Ciuffini, la valletta di Mike Buongiorno, con la licenza di uccidere come James Bond, perché tutte le volte butta fuori Raikkonen, allora ce lo dovete dire, perché parliamo di wrestling e non di sport, no? Ma al di là di questo, ma è normale secondo voi che uno che ha vinto 3 mondiali chieda via radio ai vertici del suo team: frenate Bottas così Vettel deve rallentare e io ho maggiori possibilità di sorpassarlo? Senti, ti propongo una cosa. All'ottava gara del mondiale. Ti propongo una cosa. Ti propongo, no, non mi propongo niente. No, e ti propongo. Non dice niente. Per stemperare. Io passo a radio DJ in permanenza. No, no, se no, non mi dai ragione. Ma ho ragione su allora, questo. Allora, è vero. Allora mi hai tradito. Allora mi hai tradito veramente. Ho le corna. Marco, buongiorno. Provincia di Monza Brianza. Buongiorno. Sì. Dica. Buongiorno. Io sono l'opinione pubblica che vuole dire la sua su questa cosa. Io sono completamente, cioè, allibito da Vettel. Lo aspetti come ha fatto Coulthard con Schumacher nel box e gli dai le sberle, ma non prendi e impazzisci mentre ti stai giocando un mondiale e fai una cosa del genere. Secondo me arriva bene, avrebbe dovuto dirgli qualcosa in privato e gli rabbia ad S4, perché non, cioè, è una cosa fuori dalla norma quello che ha fatto Vettel. Che poi il nero faccia quello che vuole, comanda lui, può fare quello che vuole e nessuno gli può dire niente. Beh, entro certi limiti, non dovrebbe poter fare quello che vuole, però ho capito perfettamente la sua posizione. Sentiamo anche Roberto Pordenone per la risposta dei Lauturrini. Allora, due cose: la telemetria, basterebbe confrontare la telemetria dei giri precedenti anche per capire se Hamilton lo faceva normalmente, e questa è la prima cosa. La seconda, Hamilton ha detto che ha rallentato perché non vedeva più la safety car. Peccato che se uno guarda l'inquadratura che hanno fatto vedere con dalla vettura di Vettel, la safety car si vedeva benissimo su quella curva. Turrini. Beh, allora, il primo ascoltatore che saluto con affetto, siccome io c'ero a Spa nel 98, non è un paragone giusto, perché Schumi voleva uccidere Coulthard dopo la gara, e in quella gara Schumacher, per colpa di un trappolone tiratogli da Coulthard, ha perso il mondiale. Attenzione, perché Coulthard per 10 anni ha mentito dicendo che non aveva assolutamente fatto nulla di anomalo, e poi nel 2008 confessò in un'intervista televisiva che su indicazione del box della McLaren aveva rallentato nel diluvio apposta per mettere in difficoltà l'avversario di Häkkinen. Quindi non è giusto dire: ah, ma allora bisogna rimproverare Vettel perché c'è cascato, perché Schumacher purtroppo ci cascò molto di più, perché tamponò in pieno nel diluvio Coulthard e ci perse un campionato del mondo, numero uno. Sulla seconda cosa, il secondo interlocutore ha detto una cosa molto sensata. Io non ho detto che Hamilton ha frenato di proposito, cioè, perché qui fanno tutti i furbi. Hamilton ha fatto una cosa che è tipica del suo atteggiamento: alza il piede dall'acceleratore per infastidire l'avversario che ha alle spalle, fa precipitare la velocità, e lì c'è la telemetria, senza frenare, da 90 a 40 km all'ora. Può anche essere che a stretto rigore di regolamento un simile atteggiamento sia consentito, ma è sleale, punto. È una cosa che tra gente, non voglio dire per bene, tra campioni veri non si fa. Poi questo, l'ho detto poco fa al mio amico Genta, non giustifica che a Vettel gli vada giù la catena, gli si gonfi la vena e vada a dargli una ruota. Per carità, io non ho detto quanti, ho detto che la sanzione a carico di Vettel è giusta. Il punto è che se Hamilton tutte le volte che fa questi giochini se la sfanga sempre, e ho detto Abu Dhabi 2016 e potrei evocare altre situazioni, allora non ci siamo. Non ci siamo, perché anche l'interlocutore ha detto: ah, ma tanto lui può fare quello che vuole. No, lui non deve poter fare quello che vuole. Stiamo vedendo un campionato del mondo tiratissimo, bellissimo, tra due campioni che hanno vinto 7 titoli insieme, e guarda il destino, mai in quelle 7 occasioni sono stati l'uno contro l'altro, o erano da soli, vincevano vero, o il rivale era un altro. Quindi è una cosa bellissima. Proprio perché è una cosa bellissima. Posso dirti una cosa, Leo? No, anche due. No, guarda, ti saluto e non voglio più divorziare da te, perché ti amo troppo. Vengo censurato qui da Piero Corbaro, lo dico a tutti. Ciao Leo. Mi contento, ma un abbraccione, maestro, sei il numero uno. Anche tu. Anch'io tantissimo. Ciao carissimo. Ciao. Mi riprendo un attimo, scusate, tiro il fiato. Vincenzo Martucci, buongiorno. Ciao. Cosa mi tocca fare per Campà? Ma lui è un fenomeno, io l'adoro. Leo, non potrai far mai a meno di lui, ma neanche di te, quando parliamo di tennis, perché sei il mio. Sono un senator. Sei un senator, invito tutti a guardare questa pagina meravigliosa, di cui ricorda tu l'indirizzo. www.sportsenators.it e anche com. Penso la seconda o la terza tra le mie preferite. E comunque, Vincenzo, allora, invece, dopo una puntata di veleni, tweet e Donnarumma, non se ne può più, dai. No, ma io la chiudo così. Vi chiedo una cosa a voi tutti. Dimmi. Se aveste 18 anni e aveste il potere contrattuale di Donnarumma, quanti di voi non accetterebbero l'offerta del Real Madrid, non del Roccaruba? Dai, forza. No, io semplicemente ne ho due palle così di parlare di questa storia. ne la faccio più. Invece parliamo di sport vero, sì. Perché Sua Maestà ieri ha giocato una partita pazzesca in semifinale ad Halle, torneo che ha vinto. Finale, scusami Vincenzo, sono bollito tutte queste storie. No. In finale ad Halle contro Zverev, la stella nascente, l'erba dovrebbe essere la sua superficie. Lo ha devastato in 53 minuti con colpi d'altri tempi. Beh, intanto Zverev l'aveva battuto l'anno scorso sulla stessa erba, nello stesso posto, a Federer in semifinale. Quindi lui aveva questo punto di riferimento importante, che sapeva che stando sul fondo ci perdeva. E poi ha un suggeritore come Ljubicic, che è veramente uno dei tennisti più intelligenti che io abbia conosciuto, che gli ha spiegato che c'era una soluzione, e non era quella di buttarsi a rete, ma era quello di far andare a rete il suo avversario. E lui, così, io ho già scritto stamattina appunto su Sport Senator, su un articolo, non perché l'ho scritto io, ma perché secondo me è la chiave proprio dei successi di Rafa sulla terra e di Federer sull'erba. Cioè, così come Rafa sulla terra spinge fuori dal campo il suo avversario al di là della riga di fondo, così Federer lo chiama invece a rete, dove loro non sanno che fare. Li chiama con la smorzata, li costringe a fare la volée, e vedi un giocatore come Zverev che assolutamente non sa che fare. Sì, è chiaro che è molto giovane, però non sa questo, che fare. Il punto è questo, Vincenzo: quarta finale vinta nel 2017 per Roger Federer, certo, 26 partite vinte su, cioè 26 partite giocate, 24 vinte. Sì. Il punto è che adesso dietro l'angolo c'è Wimbledon. Lo so, però guarda che lì cambiano tante cose. Cambiano tante cose, perché non vorrei tirargli i piedi, perché tu sai che io ho una passione che enorme per questo grande campione. Io credo che questo campione abbia dentro di sé un altro successo a Wimbledon. Non dimentichiamo che appunto ha vinto nel 2012, ma ha fatto altre due finali intanto, quindi c'è la vittoria. Solo che 5 set sono un bel punto di domanda, sai, è lunga, 5 set è diverso. Qui è una su grande talento, il grande talento va veloce, Dio riesce a fare quello che vuole. 5-7, io glielo auguro, molto dipenderà dal sorteggio. E comunque tutto questo discorso su Federer, guarda che noi sono anni che continuiamo a dire che il livello del tennis maschile non è eccelso, E tant'è vero che quando Nadal e Federer rialzano la testa sono ancora superiori a tutti, con tutto il rispetto per Murray e per Djokovic. Gli altri due giocano un tennis molto molto forte, molto molto estremo dal loro punto di vista, ma non è quello di Federer e Nadal. Quindi io non mi sorprendo che loro giocando bene, mi sorprendo piuttosto del fatto che io ero convinto che fisicamente Nadal e un po' così come motivazioni Federer i due fossero arrivati, ecco. E invece no, e invece ci hanno smentito. Grazie poeta, sentiamo presto. Arrivederci, ciao, grazie. Ciao poeta. Vincenzo Martucci, così ciao. Chiudiamo questa durissima puntata di Tutti Convocati, ma vi aspetto domani alle 14 naturalmente, siamo sempre qui a parlarvi di sport con Giorgio De Luca, il nostro autore. Oggi Andrea Roccabella in regia, Edoardo Ravezzani in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.